la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. L'arte negra una usulia non scure che non lingua foresta. Ben ritrovati alla prima volta. Questa che sentite è la voce di Flo, un'artista partenopea di raffinato talento. Un incontro tra teatro e musica capace di dare vita a un piccolo capolavoro che è Il Mese del Rosario, un album davvero bello e del quale abbiamo deciso di farvi sentire alcuni estratti. Aire nel cose si muovono i muri, ti faccio l'occhio se non c'è paura o niente. Ma venga. Resta nascosta e te vengo a cercare, suoni da suono per non glassare a nulla. Ma lascia tenere. Il Mese del Rosario l'ho scritto a Napoli perché mi sono appunto quest'anno trasferita al centro storico. Prima vivevo in un paesino di mare, insomma alle porte di Napoli, che si chiama Bagoli, e quindi il primo disco l'ho scritto lì, guardando il mare, insomma, mentre questo secondo l'ho scritto al centro storico, dove praticamente il paesaggio, anche il paesaggio sonoro intorno, insomma, è ben differente. Le storie sono molto più vive intorno a te, le vedi dalla finestra, mentre nel primo caso chiaramente era più un orizzonte più immaginario, insomma. Ecco, però quello che si sente è un respiro molto internazionale. C'è qualcosa che si collega al sud, ma è un sud, diciamo, estendibile al mondo, al sud del mondo. A me piace molto viaggiare, poi per lavoro, per fortuna, al di là, insomma, poi del mio percorso da solista, anche prima quando ho collaborato con altri musicisti, insomma, con il teatro, ho sempre avuto la fortuna di viaggiare, ma credo che è anche per piacere, cioè, ho viaggiato anche molto perché, insomma, per le vacanze, per andare in giro. Credo che però questa tensione verso il fuori, verso il viaggio, sia più un fatto mentale che poi veramente fisico, nel senso che non sono mai stata tanto tempo in un posto, a parte appunto l'esperienza dell'Erasmus, anzi soprattutto quando si va fuori per concerti, in realtà arrivi lì, fai il concerto e non è che poi c'è tutto questo tempo per visitare il posto, conoscere le persone. Credo che sia più dovuto ad una tensione proprio interiore, quindi più legata alle letture, al cinema, al teatro, ma un anelito, insomma, verso qualcosa di diverso, verso il viaggio, ecco. Può essere anche che Napoli stessa in sé per sé rappresenti proprio questo, nel senso il tema proprio del viaggio è ogni giorno a Napoli, no? Non basta girare sì, un angolo. Sì, questo senz'altro è vero, hai ragione, perché in effetti Napoli ogni giorno è diversa, ogni giorno è abitata da persone diverse, perché comunque, poi soprattutto negli ultimi anni, c'è un flusso turistico fortissimo, la città è rinata, si è risvegliata, per cui io che vivo proprio lì al centro, chiaramente ogni mattina respiro qualcosa di differente, incontro gente diversa, insomma, sicuramente sì, anche la mia città in sé ha questo tipo di temperamento. Ecco, un'altra domanda che volevo farti, che esula dal tuo percorso musicale, ma che forse in qualche modo lo influenza, è la laurea in economia, 110 lode in economia. Ma sai, non lo so, cioè, nel senso, io sono sempre stata una brava studentessa, insomma, non lo dico per vantarmi, però poi quando ho finito il liceo classico, insomma, volevo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo studiato appunto al liceo, pur avendomi, insomma, molto appassionato. Ho preso questa laurea, ma io nel frattempo comunque già cantavo, già lavoravo, quindi è stata, come dire, una laurea di quelle che prendi per avere una chance qualunque, se non dovesse funzionare con la musica. Era il tuo piano B, diciamo. Sì, però mi è mai servita, meno male. Però in qualche modo magari ti ha aiutato. Guarda, io credo che tutto quello che facciamo, che ho fatto, serva. Cioè tutte le esperienze che uno fa, se le fa con l'attitudine di imparare qualcosa, di prendere qualcosa di positivo, serve. E comunque, insomma, un percorso di studi anche alternativo alla musica arricchisce, perché poi noi ci chiudiamo sempre un po' appunto nel nostro lavoro, che è tutto per noi, parlo per me e per i musicisti che conosco, finiamo sempre e comunque a parlare di musica, quindi avere anche altre cose, avere anche altri argomenti, altri orizzonti in realtà serve, anche divertente. Ecco, per quanto riguarda invece la tua gavetta, ho visto che hai una gavetta proprio nella più grande tradizione delle gavette italiane, no? Quindi molto, esordio giovanissima, hai fatto tantissime serate dal vivo, hai lavorato molto nel teatro. Sì. E allora, due cose. La prima, una considerazione sulla tua gavetta, insomma, è stata lunga, è andata bene così, cosa ne pensi tu guardandoti alle spalle? No, io chiaramente, cioè, mentre la facevo non pensavo che quella era una gavetta, cioè nel senso che poi mentre ci sei dentro nelle cose non riesci ad analizzarle, pensavo che fosse l'unico modo per cantare, io ho sempre voluto cantare, cioè il mio desiderio era quello, ora come potevo farlo poi era un dettaglio, quindi ho cominciato praticamente a 13 anni, 14 anni a cantare proprio al piano bar, insomma come fanno in molti. Poi ho avuto il mio primo gruppetto, sai, del liceo, quelli un po' più così che lasci le basi e vai col gruppo che suona dal vivo, quindi già questo grande cambiamento epocale. E poi ho avuto, insomma, il debutto, tra virgolette, vero e proprio, l'ho fatto in teatro con un musical che si chiama Squinizi di Claudio Mattone e Gino Landi, a 21 anni. E lì in effetti poi è cambiato tutto, perché ho cominciato a lavorare in un altro modo, insomma, capire un po' la disciplina del lavoro in teatro, dei concerti, perché poi appunto da lì ho cominciato a fare dei concerti e capisci, insomma, che è divertente, è bello, però è anche una cosa molto seria, molto importante, la sera devi tornare presto, non devi prendere freddo, non devi bere, non devi fumare, cioè capisci che c'è un lavoro dietro, uno studio. No, non è stata lunga, io penso che la gavetta si debba fare, la rifarei se tornassi indietro, anche perché insomma, almeno per me ha prodotto dei risultati che per me sono soddisfacenti, sono belli, cioè credo che si arrivi poi ad un punto in cui uno è solido, in qualche modo è solido, è credibile e c'ha la forza anche di proporre un proprio discorso musicale, un disco che può andare bene, può andare male, però tu sei solido, sai quello che chi sei e sai quello che vuoi. Fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente. Anche in viaggio. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Si spegne prematuramente la vita del giovane amante. Floriana Cangiano, cantautrice napoletana, al suo esordio con l'album Il mese del rosario, è l'ospite della prima volta di oggi, una stagione, la nostra, che sta cercando di dare voce al talento nel momento in cui comincia ad affermarsi, ed è sicuramente questo il caso di Floriana in arte Flo, che qui sentiamo nella sua controra arancione. Le ombre sul si muovono, che sembrano ballare. Ai singhiozzi d'amore, quanta poesia sotto questo cielo. Attenta che un giorno di questi ti porto via. In realtà la mia famiglia non ha mai, insomma, ha sempre molto creduto nel fatto che io cantassi, ma più perché gli piaceva, cioè appunto la mia maestra di canto diceva che ero brava, quindi loro erano contenti, ma sempre con non con tanta importanza, cioè era come fare uno sport qualunque, come fare andare a nuoto, non so come dire, le mie amiche facevano pallavolo, io facevo canto, cioè i miei l'hanno sempre visto, mia madre in realtà, perché solo la mamma, ha sempre vissuto con molta naturalezza, insomma canti, poi piano piano la cosa è cominciata a diventare più seria, più importante, è cominciata a diventare un lavoro, ma credo che mia madre, avendo sempre visto il mio modo di affrontare questa cosa, cioè una grande serietà e appunto ritenendolo un lavoro, cioè io comunque voglio dire sono stata subito indipendente anche proprio economicamente, quindi io penso che se un genitore poi ti vede così determinato e che riesce a finalizzare anche in un modo pratico e concreto, cioè non è che ti può, cioè non è che ti può ostacolare, forse mi avrebbe ostacolato se fossi stata una di quelle che canto così tanto, come dite a Roma, tanto per cantare, cioè nel senso senza progetto, senza né arte né parte, allora lì magari avrebbe pure avuto da ridire qualcosa. Adesso il tuo album e comunque le tue canzoni stanno cominciando ad avere un certo successo anche a livello nazionale. Intanto come gestisci questo successo? Cioè, anche perché probabilmente è arrivato gradualmente, per cui non è una cosa che ti è arrivata addosso di colpo, oppure no? Com'è? Sì, non mi è piovuta addosso. Io mi sono dovuta guadagnare ogni centimetro e ogni, tra virgolette, fan che ho, lo conosco di persona. Cioè, io voglio dire, non sono mai andata in televisione, quindi tutto quello che ho costruito dal punto di vista, diciamo, del pubblico l'ho costruito suonando. Quando ho fatto il primo disco, insieme ai miei compagni, Ernesto Nobile, che è il mio chitarrista, il mio produttore, Marco Di Palo, che suona il violoncello, e Michele Maione alle percussioni, ci siamo girati l'Italia sotto sopra, ma guarda, non ti dico quello che abbiamo fatto, cioè in condizioni proprio da pazzi, che oggi quando ci ripenso dico, vabbè, siamo stati proprio dei pazzi, però in quel primo anno, 2014, siamo riusciti a fare veramente uno zoccolo duro di gente che si è subito appassionata al nostro progetto e piano piano, poi ci siamo un po', tra virgolette, ingranditi, palchi più grandi, agenzie, management, sono cominciato a entrare delle magari figure anche che si sono occupate di noi. Prima facevo tutto da sola, facevo tutto io, chiamavo, organizzavo, cioè proprio multitasking. E no, non mi è piovuto addosso, però chiaramente io adesso lo sento che le cose sono un po' cambiate, lo sento che prima magari quando stavo sul palco, se volevo dire una cosa la dicevo senza pensarci, invece adesso ci devo pensare, perché comunque il giorno dopo questa cosa è subito su Facebook, è subito su in rete, e quindi che più gente mi conosce, che magari c'è più attenzione su di me e che magari c'è anche appunto un management che si interessa di quello che ho fatto, che faccio, cioè il concerto deve andare in un certo modo e lo standard deve essere di un certo tipo. Quindi adesso lo sento che le cose sono cambiate, ma va bene così. La fase iniziale del tuo percorso artistico, come hai detto tu, cioè la formazione di questo zoccolo duro di ascoltatori, ha attecchito subito, nel senso che una volta che hanno ascoltato la tua musica, insomma, ci sono e non se ne sono più andati. Questo racconta anche la bellezza della musica quando è di qualità, e normalmente si parla di musica indipendente, no? Quando si parla di artisti come te. Allora, tutto quello che racconti spiega che se le case discografiche avessero un po' più di coraggio, probabilmente artisti come te sarebbero ascoltati da molte più persone, perché la musica di qualità piace, insomma, non è vero che bisogna fare cattiva musica per acchiappare le persone. Assolutamente, no, assolutamente. Sì, non hanno coraggio, ma guarda, secondo me siamo proprio su due lunghezze d'onda diverse. Cioè, anche io prima dicevo, vabbè, perché le discografiche dovrebbero interessarsi alla musica. Poi ho capito che in realtà stiamo parlando proprio di due cose diverse, cioè di musica e di un prodotto X che può essere paragonato alle patatine, alla Coca-Cola, piuttosto che al Big Mac, cioè nel senso quella è un'altra cosa, risponde ad un altro tipo, ecco ritornando all'economia, risponde proprio ad un altro tipo di legge, di sistema di marketing, no? Si vende in un altro modo, sì. Si fa in un altro modo. Io mi sono incrociata qualche volta su dei palchi, diciamo, particolari, no? Come può essere quello del May, con artisti un po' più importanti, no? Molto più importanti, insomma, di me, oppure in contesti tipo musicultura, dove magari incontri anche la star pop dell'anno che ha fatto un talent e così. E guarda, quando poi si va a cena, comunque poi escono fuori un po' le cose, le frustrazioni, perché magari uno che è sempre abituato a cantare si trova a stare sei mesi dove ha cantato due volte e tutto il resto è l'intervista in televisione piuttosto che la foto sul giornale o lo spot del telefonino. Per un cantante questo è frustrante, bruttissimo. Io non potrei vivere senza cantare, cioè alla fine il mio lavoro, la mia gioia di vivere è quella che io provo quando canto sul palco, non quando... Cioè, è bellissimo fare interviste, però voglio dire... No, ma hai ragione, quando... io non le farei mai le interviste, infatti... Io sono lusingata ancora oggi, mi chiedo ma come mai la gente si interessa a quello che penso? Questo per dire che, insomma, le discografiche adesso non hanno questo tipo di attenzione, perché vendono un altro prodotto, fanno un'altra cosa, vendono un personaggio che funziona come una sorta di griff, no? Come un logo per quella stagione, e poi va bene così. Cioè ce n'è tanta di gente che è venuta fuori col tormentone dell'estate e poi completamente sparita, è in seria difficoltà, perché poi si sa, cioè poi nell'ambiente magari si sa che la gente sta male e sta frustrata e sta depressa, perché poi a un certo punto nessuno ti chiama più perché c'è il nuovo vincitore dell'anno e tu praticamente non servi più, no? Cioè non lo so, voglio pensare che questa cosa poi si esaurirà, cioè non può durare per sempre, cioè, perché come hai detto tu, la gente ama la buona musica, non è vero che la gente vuole sempre schifezze o cose preconfezionate o cose tutte uguali, ma assolutamente no. Uno va in televisione, cioè parlo della televisione per dire, no, che per un artista, diciamo, giovane come me, io ci andrei subito, cioè voglio dire, non è che io dico demonio, vado retro, io ci andrei subito, però io ci vado con le spalle coperte. Io ho un gruppo di musicisti professionisti, noi suoniamo praticamente tutti i giorni, dalla mattina alla sera, siamo in sala prove, incidiamo, facciamo cioè vuol dire, per me sarebbe solamente un modo per farmi vedere, più farmi ascoltare più che da 300 persone, magari da 3 milioni di persone, questo sì, però devi essere qualcosa, devi avere qualcosa da dire, perché se no vai lì, ti prendono, ti mettono un bel cappellino, una bella così, la barba che è mo hipster, che va tanto di moda, vai lì, canti un po' con la voce graffiata e ok, tutti gridano al miracolo, dopo 6 mesi sono scordati tutti, insomma quello è un po' delle tesi. Senti, adesso invece per chiudere l'intervista, progetti che hai davanti, in vista? Guarda, io ho fatto il disco è uscito a marzo, però in realtà stavamo in una fiumana creativa, quindi abbiamo continuato a lavorare in sala, scrivendo delle cose, registrando dei provini, poi quando ti viene l'idea la sviluppi, perché poi tanto dopo per il terzo disco magari poi la butti oppure la tieni, insomma il lavoro di creazione è un lavoro lungo, devi avere la possibilità di avere cose da scartare, no? Però in maniera imminente farò quest'anno uno spettacolo con Alfredo Arias, che è un regista argentino, insomma molto, molto bravo, molto famoso, e faremo questo spettacolo, si chiama Madame Pink, e saremo pure a Roma al Teatro Argentina, insomma una cosa bella per me. Quindi sarà teatro o porterai i tuoi pezzi dentro lo spettacolo? No, sarà teatro, perché drammaturgia, diciamo, contemporanea, quindi sarà una cosa che non c'entra con la mia attività, diciamo, di autrice, però io comunque nel frattempo scrivo sempre, canto, faccio dei concerti. Perché perché tu continui a mantenere anche il teatro, perché il teatro è un'altra tua grande passione. Sì. E ovviamente non è paragonabile alla musica, che diciamo occupa tutto il mio, cioè il mio lavoro principale nella musica, però ogni anno mi capita sempre di fare uno o due spettacoli, devo dire sempre belli, perché poi con il fatto che appunto sono una cantante, in teatro c'entro sempre con un ruolo particolare, cioè perché magari serve la cantante, serve una che faccia le cose che faccio io, e quindi c'ho sempre un po' il mio spazio cucito addosso a me, quindi divertente questo. È proprio tutto, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Se volete però potete riascoltarci in podcast oppure venire a trovarci, a parlare con noi sulla nostra pagina Facebook o scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Vi saluto, vi auguro un buon inizio di settimana. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Un bijou, una moneta, un'opinione, la faccia giusta per ogni occasione, fa il picco di share. Mentre a noi dicono, oh, buone notizie per lei, per quella cattedra vuota siete 3006. E la vie comme ça, ah, ah, comme ça, s'en va, ah, ah, on attend quoi, ah, ah, mon ami, moi je ne sais pas. La vie comme ça, ah, ah, comme ça, s'en va, ah, ah, on attend le quoi. Moi je ne sais pas. Mon chéri, ho speso tutto in formazione, ho trascurato alimentazione e visibilità, e non ho un grande cognome, non ho un grande fratello, nel paese del sole tutti cantano azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. E la vie comme ça, ah, ah, comme ça, s'en va. Ah, ah, mon ami, moi je ne sais pas. La vie comme ça, ah, ah, comme ça s'en va. Ah, ah, attends, quoi. Ah, ah, mon ami, moi je. La vie comme ça, dimmi come si fa, senza congiuntivi a diventare una star. La vie è bella, la fuga di cervelli che studiano un vaccino anti stupidità. Che in orbita profuma per le nostre piante.